Est. Attenzione, attenzione. In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Sento nascere, lo sento crescere in me, è come un brivido che non puoi comprendere. Rompe le regole, oltre ogni limite, ma non ti molla mai, non ti molla mai. Troppo tardi ormai, non ti molla mai, non ti molla mai, e fa parte di te. Welcome to the zoo. E siamo arrivati a martedì, carissime merdacce che ascoltate lo zoo. Facciamo un accordo? Noi vi facciamo sentire il meglio delle scenette trasmesse negli ultimi anni e voi ci seguite e ci messaggiate sui nostri social. Quello di Pippo e il mio. Tutto chiaro? Ma ascoltiamo subito la prima scenetta di oggi. Ne siamo malati di mente, nessuno può dire nulla, lo diciamo in apertura del programma che tutto quello che diciamo è casuale, esatto. Che è tutto detto così, pura fantasia, e poi siamo malati di mente, lo dimostra Wonderland, scusa. E oggi torna anche lui, il colonnello Trautmann, che sta cercando disperatamente Rambo, ma un giorno chiama Krakauer, Coletta, Giampiero, Alfonso, Schnauzer. No. Benissimo, allora siamo pronti, vediamo se oggi il colonnello Trautmann riesce a trovare Rambo. Pronti? Andiamo con il gran finale, ovviamente sempre in Toscana. No. Pronto? Bella. Ortega. Sì? Sono Trautmann. Sì? Sono Trautmann. So che non si sente bene. Confermare. Ortega. Eh? Confermare. Mario? Ortega. Sì? Confermare. Ortega, Ortega. Sembra Nicola. Ma se lo dici, va fanculo. Pronto? Ortega. Sì? Confermare. Cosa? Chi parla? Sono Trautmann. Mi scusi? Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Mi scusi, a chi sta cercando? Ortega. E io sono la moglie, ma lui non è a casa. Allora vedo che non ha capito. No. Io non sono qui per salvare Rambo da voi, io sono qui per salvare voi da lui. Rambo. Ma cosa vuole lei? L'esercito ritiene che io possa aiutarmi. Aiutarmi a cosa? Confermare. Cosa devo confermare? Mi sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia, con i fucili e a mani nude anche. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore, a vivere di quello che trova, a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. Ma cosa vuole lui? Tutto e basta. Ortega. Non è Ortega qua la casa di Ortega. Capo pattuglia chiama squadra B. Confermare. Pronto? Ortega. Ma che cavolo vuole? L'esercito ritiene che io possa aiutarvi. Sì. Ma io non ho bisogno di aiuto, capisci o no? Aia. Aia. Tutto triste. Sta base. Pronto? Capo pattuglia Corvo. Qui Corvo. Rambo, rispondi. Avanti Corvo. Comandante Trautmann, chi cazzo sei? È sempre come al solito, io mi fido solo di lei. Rambo, sono confermare. Qui, sì. Confermare. No. Confermare. Confermare, morto, tutti morti. Ci sono solo io che sto per morire. Ortega, è andato. Krakauer. Andato. Barry. Andato. Danforth. Pesava più di un quintale, l'ha portato via sua moglie in braccio. Jorgensen. È andato anche lui. No. Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia. Bravo. Con i fucili, con i coltelli, a mani nude anche. Che bello. Un uomo addestrato ad ignorare il dolore. Comandante Trautmann, mi dica. L'esercito ritiene che io possa aiutarvi. Pazzo. Bene, sono fortunato, mi sento fortunato. L'ho reclutato io, l'ho addestrato io. Bene, e come al solito io mi fido solo di lei, comandante Trautmann. Mi dica. Pazzo. Sì, siamo a posto? Allora vedo che non ha capito. No. Sì. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Sono per salvare voi da lui. Bravo. Siete fortunati che non vi ha ammazzati tutti. Bravo. Confermare. Confermo. Ma chi? La memoria. Pazzesco, un pazzo. Aia, Toscano. È lui. Rambo, rispondi. Che è affanculo? Ecco, sei un civile. La sera torna da sua moglie a coltivare i fiori del suo giardinetto. Lei non è sotto pressione, poteva riflettere. Mi avete rotto i coglioni, maiala dalla c***a che possa cappare con l'ossigeno. Ma che cazzo, il numero... chi mi ha dato il numero di telefono, consolato? Dimmi chi me l'ha dato. Io solo so cos'altro è capace di fare. Ma vaffanculo della radio, il cazzo della tasca, il cazzo della tasca, il cazzo, ma la ragazza ci vorrebbe, ma quello del somaro di babbe dall'ar culo tutti quanti. Pigliare la nel culo. Vaffanculo e fammi mangiare. Paese di stronzi. Ma carca di San che te fa aiutare. Ma ci ascolta! No. Che risate, Dai, mettiamo un disco, così posso cambiarmi le mutande. Sì, amici, ho riso così tanto che me la sono fatta sotto. I could be wrong, but I feel like something could be going on. The more I see you, the more that it becomes so true. There ain't no other for me, it's only you, you. I could be wrong, but I feel like something could be going on. I could be wrong, but I feel like something could be going on. I could be wrong, but I feel like something could be going on. There ain't no other for me, it's only you, you. My love until you haunt me, baby. I wanna stay by your side, be there to cool you off. Quello che stai ascoltando è il meglio del peggio dello zoo, ovvero Zoo Best. Ecco un'altra divertentissima scenetta presa dal nostro archivio. Ragazzi, attenzione, attenzione, perché questa è una puntata molto speciale. Sapete che noi dello Zoo di 105 riusciamo ad ottenere dei file segretissimi. Certo. Io quando sono andato a Orlando alla NASA ho rubato un mangiacassette con dentro queste cassette, sì, che contengono praticamente le prime avventure spaziali della NASA. L'Apollo 00 è stata la prima missione spaziale e oggi, signori, il protagonista parlerà sia con la NASA, sì, quella vera, sì, che con l'ASI, che è quella, l'Associazione Spaziale Italiana, poverini. L'Agenzia A cosa serve l'Agenzia Spaziale Italiana? A tagliare i capelli alla Cristoforetti. No, ragazzi, no, ragazzi, questa telefonata purtroppo metteremo a confronto due cose che ci fanno male dentro, capito? Perché proprio... Colleghiamoci con Apollo 00, andiamo. Apollo 00 come la farina. Apollo 00 come la farina. Ecco a voi le avventure dell'Apollo 00 come la farina. Houston. Modo è di rispondere. Io non ce la faccio più. Io credo di voler abbandonare questa missione che ormai dura da tanti anni. Non so più neanche dove scrivere il diario di bordo, l'ho scritto con le feci sul muro. Io. L'unica forma di scrivere. Come, stavo parlando da 5 minuti anche. Chi parla, pronto? Che è un telefono, sono io, sono John. Sono appena svegliato, chi parla? Sento l'esta. Siccome sono stufo anch'io, le stavo dicendo che ho finito qualsiasi forma di... Ehi, sto parlando adesso. Stavo dicendo che appunto, siccome ho detto io... che non mi interessa comprare l'abbonamento dei testimoni di Geova. Cosa, parliamo insieme. Sai che abbiamo scoperto che su Marte c'è fica? Non mi ascolta neanche. Ma non me ne frega un cazzo quello che dici. Stavo dicendo, abbiamo mandato una sonda spaziale a forma di cazzo su Marte e abbiamo scoperto che le marziane esistono e sono anche delle belle fiche. Stronzata. Hanno fatto dei pompi, perché poi ovviamente avevamo messo la telecamera su questo enorme membro spaziale che abbiamo mandato nello spazio. Voi avete lanciato un cazzo gigante nello spazio. Un cazzo gigante nello spazio è stato accolto da queste marziane in gli maniera... applausi. Ciucciate, ma massaggiamenti di palle, ma è stata una roba... Lei è un demente, lo sa. Dai, senti, mi hai già rotto tre quarti di cazzo, cosa vuoi? Qual è il problema? Dai, su. Veloce. Veloce, dai, su. Mi faccio il fischio perché non è una cosa... Dai. Senta, guarda, io mi sento buono, ci stiamo avvicinando alle feste natalizie ed è giusto che lei abbia uno sfogo. Ho fatto un albero con i miei peli del pene. In un angolo, sì. Poi ho usato le secrezioni del mio naso come palline. Poverino. Le passo il reparto cibo spaziale, così lei potrà ordinare il suo bel piattone di Natale. Cosa vuole? No, ma sta parlando seriamente. Cosa vuole, una pizza? Cosa vuole? Magari, qualsiasi cosa, si può mangiare. Allora, le passo il reparto cibarie per lo spazio, va bene, così ordina quello che vuole e glielo facciamo spedire su, eh? Si chiama proprio reparto cibarie per lo spazio. Bello. Reparto cibarie per lo spazio, per i coglioni nello spazio, ma sì. No, ma che modo è la NASA. Good morning, NASA headquarters. How may I help? Sono il tenente John. Who is it you're looking for? I want to mange in the spazio. Mange? Sorry? I'm a tenant. I'm in the space. I'm astronaut. No. Pronto? Tradotto dicono che lei è un goloide, morirà nello spazio. Non mi ha dato nessun tipo di... Ma scusi, ma lei va nello spazio e non sa l'inglese. Senta, le passo l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, così magari capiscono la sua lingua, va bene? ASI, buonasera. Buonasera, sono il tenente John. Mi scusi? Sono il tenente John. Sì. Volevo sapere, per l'approvvigionamento... Sì? Fate la spedizione in giornata o quanto devo aspettare? Per ricevere cosa, mi scusi? Per i viveri. Sono in collegamento in questo momento con Houston. Senta, lei ha un referente per caso, qualcuno con cui vuole parlare? Perché noi di questo qua è il centralino. Ah, sì, perché praticamente Houston, io mi trovo adesso solo nella stazione, e Houston mi ha passato l'approvvigionamento per ricevere i viveri. Lo metti giù. Questa è stata la stazione in italiano. Sì, ma con chi vuole parlare, mi scusi? Non so qual è il reparto, perché mi hanno collegato direttamente, quindi c'è qualcuno che si occupa dell'approvvigionamento? non lo so, proviamo una cosa. Non lo so. Non lo sa. Che organizza. Sentite la differenza tra NASA e ASI. Questa in cucina. La chiamata è stata inoltrata ad un sistema automatico di messaggistica vocale. Sentiamo. Dopo il segnale acustico è possibile registrare un messaggio. No, no. Su John, sulla stazione. Stato inviato. Grazie. Per ricevere assistenza, attendere in linea. Siamo spiacenti, ma al momento non vi sono operatori disponibili per l'assistenza. Per chiudere il collegamento, premere 1. Per inviare un altro numero, premere 2. Sì, ma io non mi hai fatto finire anche la segreteria dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ma anche nella realtà. È ancora in linea? Sì. Per chiudere il collegamento, premere 1. Per inviare un altro numero, premere 2. Ma io vorrei parlare, cioè... Prima la segreteria mia stavo parlando, cioè. È ancora in linea? Sì. Per chiudere il collegamento, premere 1. Per inviare un altro numero, premere 2. Ma questa è l'Agenzia Spaziale Italiana? Ma come funziona? Cioè, siamo spiacenti per le difficoltà incontrate. Ma ho fame. Ti prego di riprovare più tardi. Come? Per sentirci. È un successone, eh? Cosa le arriva? Pizza, lasagna? Ma scusa. Ma scusa. Tutto vero, tutto vero. Non gli ha dato neanche il tempo di rispondere. Anche la segreteria ti stoppa al momento, così sfancula. Non mi interessa. Neanche messaggio, era messaggio inviato. No, ma aspetta, ma da quando la segreteria ascolta? Sei ancora lì? Sei lì. State ascoltando Zoo Best, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Ti fai quanti chilometri senza partire mai? Io cerco il mare mentre tu cerchi il wifi. Quest'estate cosa fai? Faccio di tutto, prendo e mi butto. Gli ultimi posti in aereo, palme che toccano il cielo, foto con hashtag io c'ero. No hablo español, andale, andale. Altro festino, cervello nel frigo. Quanto sei figo, capisci che dico? Sarà il tattoo di cui mi pentirò. Andale, andale. A casa in un posto straniero, dal cielo cade un desiderio. A 100 partiti da zero. Solo un battito che sale che ti prende. Se fuori c'è la notte che si accende, dammi un'estate che ricorderò per sempre. Salta sulle spalle tra la gente. Solo un battito che sale che ti prende. Sei una musica che brucia sotto pelle. Sai che l'estate può durare anche per sempre. Andale, andale. Portami giù dove non ti tocca. Dove la vita è loca. Andiamo a ruota. Questa notte è nostra. Oggi lo Zoo di 105 è in versione best. Avevamo tantissime scenette da morir dal ridere che sono andate una volta sola e abbiamo deciso di riproporle. Contenti? Ecco, questa è una di quelle scenette. Hai qualcosa da dire invece di scassare il cazzo sui social? Tieniti un diario. Perché Paolo sta limonando il maestro? Aia! È stata una cosa improvvisa. Hai schiacciato la palla. Oh, amore mio. Dai. Aspetta, aspetta che ti rilasso. Oh, ci colleghiamo con caro diario Big Bambù, tra l'altro. Diario, diario, diario, nelle pagine scritte. Caro diario, oggi è stata una giornata straordinaria. Ecco cos'è successo. Che saporaccio in bocca. Ma chissà perché quando bevo il caffè a casa mi fa un effetto sempre stranamente soporifero. Ma no, ti sei svegliato. Fanculo alle piante. Sapevo che avvelenalo con la natura era un sito di merda. Cosa? Ma che farfuglie, amore? E perché io ho un coltello in mano e delle corde? Io? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non vedi che è una spada da pirata e una cima? Mi preparo per il carnevale di San Patrignano. Ma non c'è. Ma San Patrignano è una comunità per recuperare tossicodipendenti. Non fanno il carnevale. Certo, infatti non vedi che ho anche il sangue finto che esce dal naso con le croste bianche. Ah, ma sembrava che mi volessi uccidere nel sonno. Aia. Ma perché non ridi? Ah, scusa, ero sovrappensiero. Pensavo a te e a un phon nella vasca da bagno. No. Brava! Ecco di cosa avevo voglia. Un bel bagno caldo. No, no. Sì, vado ad attaccare la radio alla ciabatta di corrente spelata sopra il bordo della vasca. Wow, come sei operativa. Ma non è che vuoi farmi compagnia in vasca? Che magari... Cosa? No, dico magari... Cosa? Siamo lì nudi in vasca. Io lavo te, tu lavi me e poi magari cerchiamo di abbattere il muro dei 2,15 secondi di cose nudi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non se ne parla. C'ho il ciclo. Ma come? Ancora? Ma sono 3 anni consecutivi. Non è normale. Sono ipercciclica. È una condizione rara delle donne che praticamente hanno le cose sempre, come una ferita aperta. Tu non sei un cazzo di ferite aperte. Accidenti. Mi spiace, amore. E cosa possiamo fare? Vuoi andare da uno specialista che conosci solo tu, col quale parli solo tu, che accetta solo pagamenti in oro, come sempre? No, la mia migliore amica Gianni dice che l'unico toccasana possibile è trasferirmi da sola in Giamaica un mese. Là ci sono i Big Bambù che aiutano parecchio le donne col mio problema. Big Bambù? È un frutto particolare che hanno solo i giamaicani. Wow, chissà che buono che deve essere, col sapore esotico. Sì. Tipo senegalese, ma più salato, per via del mare. In che senso? Non colgo il sapore senegalese. Perché c'è il Big Bambù anche lì? Sì. Solo che si chiama diverso. Ah, certo, certo. Ma senti, perché devi andare da sola? Non vorrei mai che tu mi vedessi soffrire. Io ci tengo a non farti rimanere male. Oh, va che mica sono una moglie di quelle che non ama il marito. Hai capito, pezzo di merda, figlio di sta puttanina? Adesso fatti una corsa in corridoio per andare in bagno con queste scarpe da tip tap piene d'olio. Per il parquet sulla suola, per favore. Ma come da tip tap pieno d'olio sulla suola? E se scivola? Maga! Magagna! Sarebbe una bella magagna! Tu sì che mi ami e pensi alla mia incolumità, amore! Sì. Allora tu vai in bagno che io prenoto il viaggio online con la tua carta di credito. Ti scazza se faccio anche due acquisti per prepararmi il viaggio? Ma no, amore, vai pure. Per la salute, questo è dato. Sì. Grazie, pirla. Come? Si vede che ho colto male. Vabbè. Hai capito, caro mio? Mia moglie soffre come un cane. Ora che è in Giamaica a curarsi coi Big Bamboo, sono proprio contento. Sfoglio il suo profilo di Facebook e vedo che nelle foto è sempre con un sorriso della Madonna. Credo che stia facendo anche del volontariato, perché nelle immagini è sempre circondata da ragazzi giamaicani senza vestiti. Devono proprio passarsela male, poveretti. PS, qualche bastardo deve avermi clonato la carta di credito. Ha usato i miei soldi per comprare 3 litri di lubrificante vaginale, 320 confezioni di profilatici extra large alla liquirizia, delle briglie, un morso per giumente e dei punti di sutura per sfinteri. Non vedo l'ora di sentire mia moglie al telefono appena gli passa la brutta lussazione alla mandibola per via dei propri Big Bamboo. Poverina, chissà come soffre. Nelle pagine scritte con la penna del piano. Cosa? So Best si ferma per qualche minuto di pubblicità. Giusto il tempo necessario per trovare nel nostro archivio qualche altra scenetta incredibile da farvi riascoltare. Ah, e se nel frattempo cambi canale, sappi che farai la stessa fine di Gargiulo. Ovvero lo prendi in... Finest. Oh, voglio anche il jingle però di sta canzone. Finest. Yes, arriva. È una roba mai vista fra lo zoo e la mia pista. Lo ascolto col fratello, da mio tezio, poi che torna tutto in vista. Chiama anche tua assista. Chiede tu contenta del lavoro da gubista. Se Pippo spinge sono guai, col suono che vi spacca i cellulari, col flow degli animali, tu come cazzo stai, che non lo ascolti mai, ti pettina e ti metti in piega tipo scusolari. C'è Paolo con la delinquenza che ti mette al palo, cazzo c'è un'interferenza, no scusate squalo, due parole in cinque mesi, frate manco a dirlo, che mi serve un corso di cinese per capirlo. A volte penso Fabio quante cazzo ne sai, con Wender sono sberle tipo il cazzo di Spine, Mazzoli ancora più goloide, fra scoperto Insta, metti lo so che è la mia pista. Quanto cazzo ci piace lo zoo, sono quattro cazzoni però, sono il meglio del meglio e lo so, sì lo so, lo zoo è la mia fissa. Quanto cazzo ci piace lo zoo, sono matti e bestemmiano un po', sono il meglio del meglio perciò, però lo so che lo zoo è la mia fissa. Isn't love and tell me that she doesn't know what it is. She's missing no steps not that left on the tape. So tell us. opener, an opener. So I felt like a stranger. Ascoltatore dello Zoo di 105. Mettiti comodo. Accenditi una siga. Alza palla lo stereo. E ascolta queste due ore di Zoo Best. Il meglio dello Zoo di 105. Marcello. Pazzo baciato. Il trabocco. Sai dove sia tuo marito? Tuo padre torna a casa tardi la sera, balbetta come un merda quando gli fai le domande sulle zozze? Tuo figlio ha sempre odore di cula? Marcello il Trabello, solo nello Zoo di 105. Pronto? Pronto, amore? Andrea? Pronto? Andrea? Sì? Pronto? Io aspettavo te di venire, eh? Cosa? Io aspettavo te di venire di me. Ma stai dicendo? Tu dici che dovevo fare appuntamento. Io non so se chiama tu o Meju. Mi ha detto che oggi veniva a trovare me. Ma chi stai parlando? Chi sei? Mio nome è Marcello. Eh? Mio nome è Marcello. Ma hai sbagliato nome. Io aspetto. No, io ti ho ricevuto chiamata stanotte, no? Ti ha ricevuto? Chiamate stanotte di sto numero. Ma è impossibile. Tu mi hai chiamato per venire a fare tutto. Dai, senti, non mi scattare la mia. Bella, no. Che vuoi? Tu trovato. Tu trovato. Ehi, pronto. Pronto. Round 2. Fight. Pronto. Allora, io adesso non voglio un litigio, ok? Però io ho ricevuto il numero di questa notte, ok? No, io non ho chiamato nessuno, sono sei allora, a me dispiace, però succede sempre spesso che mi chiamano di noce e non mi piace questa cosa. Io vengo direttamente con mio fidanzato e ne parliamo a quattro occhi, ok? O mi dai soldi adesso? No. Aia. Non fa, non fa il simpatico spirito. Io voglio solo che tu vieni a fare massaggio, ok? Vieni qua che ti ho quattro pedate in culo a massaggio. Tu mi chiama. Tu hai. Qua, c'è un numero, trova il mio indirizzo che ti ammazzo. Io dimmi tutto il indirizzo. Dimmi tutto il indirizzo. Se ha coraggio, non chiama la notte quando tu tutto fai. Ma non è la chiama di notte, non mi disturbare più. Sì, però non mi piace il tuo atteggiamento, ok? Ammazzati. Non parla così. Una parla a collo, impiccati. No, adesso parliamo seriamente. Ok, dimmi... adesso basta che tu mi rotti i coglioni, so che mi vengo a cercare io, ok? Va bene? Dimmi dove sei. Sia chiaro, ok? Dimmi dove sei. Il mio numero mi trovi. Non mi piace, adesso dimmi dove sei, ok? Se c'è il mio numero mi trovi. No, dimmi tu. A Paugia, però, eh? Tu vuoi... tu vuoi venire la noce e poi adesso fa di notte leone. No. A terzo. Final round. Fight. Aia. Aia. Allora, tu devi finire, finire di chiudere il telefono in fascia, ok? Allora, se tu mi vieni a dare 50 euro... Mi devi disturbare, io non so neanche chi sei, allora, io non ho chiamato nessuno stanotte, io sono... A te stai scherzando, non sai neanche chi sono io, ma, ma stai scherzando. Se tu vieni a darmi 50... Sei... Tu stasera allora, mi disturba. Ma dammi il telefono che ti vengo a cercare io, fammi capire. Sì, allora, 335... No. Segna, segna il mio numero. No, no, io, no. Io sono stufo, perché tu vieni e chiamami... Ma di che cosa? Anche se qualcuno va, ascoltami un attimo. Dammi il tuo numero. Allora, 335... Segnali il suo numero un attimo, 335, sì, sulla penna. Dai, dimmi. 335 71 16 16 400. È il numero di Leone. 491. 491. Allora, fammi parlare però. Se tu mi chiami di nuovo. Come ti chiami? Mio nome è Marcello, ok? Marcello. Marcello. Ok. Io sono di Brasile. Io sono di Brasile, sì, sono di travestino. E allora tu allora tu mi chiami di noce, no? Per fare tu il tuo. Ma non siamo nessuno di notte, non ci siamo capiti, forse adesso porto il mio controllo subito del carabiniere della finanza. Tu mi chiama giusto. Tu mi chiama giusto stanotte, ok? Fammi no, io non ho chiamato nessuno stanotte. Fammi allora fammi finire di parlare. Stai proprio scherzando. Per okay, favore. Adesso cancellati il mio numero. Per favore, per favore fammi nessuno. Finire di parlare, per favore. Okay. Allora, io ti spiego. Allora, praticamente io lavoro su il sito di incontri di escort, ok? Allora, se tu stanotte tu avevi a cazzo duro e tu volevi no? Tu cerca tu ma stanotte ero con mia moglie nel letto, ma che cazzo stai dicendo? Se ma sei fulminato. Se tu vuoi se tu vuoi fare parcelleria e poi chiama, poi esce il numero. Ascolta, vedi che tu stai scherzando, tu stai ascoltami, tu stai dicendo cose che non sono vere. Tu sei proprio impazzito. Se no io dove trovo tuo numero allora, eh? Okay, dove non prendi? Non lo so, non lo so. Se vado a guardare dalla finanza, non ti preoccupare. Allora, se tu la notte, se tu la notte te vuoi fare cazzi tuoi e magari tu lasci adesso... tua moglie e vuoi andare a Mignota, no? Non chiama poi non viene, capisci? No, no, fammi finire, fammi finire di parlare. E non ho neanche prestato il mio telefono a nessuno. Se tu vuoi, sistemiamo di uomo a uomo, capisci? Capito. Io non ho problema. Bravo, ascolta, cancella, dimenticati sta cosa perché sennò veramente ti faccio col tuo, se il tuo numero è questo. Io sono grosso, ti spacco tutto, capisci? Sì, sì, vabbè, dai, dai, ciao, ascolta. Non chiamarmi più però adesso no, eh? No, no, no, non fa semplice. Io voglio il mio soldi, okay, dai, ciao, io voglio il mio soldi, capisco? Eh? Aia, aia, aia. You win. No. Zoo Beste. Zoo Beste, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Zoo Beste. Lo Zoo di 105. I'm the one who sold the stars for you. And I'm the fool who lost it all, and I'd lose it all again. I'd like to think that you're the same as me, but something tells me that you're not quite lost without me. I should have been a little bit stronger, I should have tried to for you. Ciao, sono Satana, il demonio Belzebù, e sono qui per lanciare una scenetta. Il problema è che ho dovuto aprire una voragine in studio e il proprietario della radio non ha gradito molto, ma per scusarmi gli ho garantito vita eterna. Quindi Mazzoli, sappi che per il resto dei tuoi giorni ti romperai i coglioni. Vai Pippo, sparami una scenetta. Colleghiamoci col TG Ricchezza. Sigla di merda, una roba è ricca aberrante. E di stamane l'incresciosa e catastrofica notizia che vede protagonista una famosa linea di cose che volano, perché gli aerei sono altri e soprattutto sono privati. Ryanair ha deciso di attivare la tratta Milano-Saint-Tropez. Scene di panico fra gli abbienti che vedono la probabilità di incrociare nel proprio scalo privato persone con l'infradito e le valigie di Carpisa. Le disdette al Nikki Beach si sono già accese. Il sultano del Ramarai ha dato fuoco al proprio autista in segno di protesta con tre gocce del proprio petrolio. Ma colleghiamoci con il nostro inviato opulento che è già in loco per avere delucidazioni. Dici un cazzo. Sei lì? Sì. Stanco. Si lamentano per i voli coi poveri? Puoi capire. Non puoi comprendere. Ma l'autista del sultano ha fatto tanta luce? Disumano, cazzo. Ma spaventato. Urlava. Sì, a cazzo urli. Sei scemo qui. Ma che notiziario è? Che notiziario. È tutto per oggi. E svogliatezza a tutti. Grazie, grazie. Ivo c'ha le valigie Carpisa. Ma di Carpisa da signore. Ma eh? Poi scusa, anch'io c'ho la valigia Carpisa. Anzi, ne ho prese due. Che cazzo volete? Te le hanno date le pittarosse in omaggio, no? State ascoltando Zoo Best. Ma è arrivato il momento di fare una piccola pausa. Vi consigliamo di non cambiare canale, perché questa volta al nostro rientro vi daremo i codici della carta di credito di Mazzoli. A dopo. Attenzione, attenzione. In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Sole, sole, mare, mare, estate. Sole, mare, amore, a 105 lei ti piace. Sole, mare, bionde, more, rosso aperitivo. E il bagnino ombrellone con lo zaino più figo. Troveremo un'altra favola per noi, con gli amici in giro a ridere dei guai. Una pizza e un gelato quando vuoi. È vacanza, qui si balla finché vuoi. DJ suona il pezzo che fa un cia, un cia, un cia cia. DJ suona quello che fa la la la la la la la. E se è vero che tu la vuoi, dalle un bacio appena puoi. Tutto può succedere, in realtà non sbaglia mai. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', no, don't call it South Beach. Yeah, look like Kelly Rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. About me back. Just cause they heard where hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah, yeah. Oh. Finger to the world as fuck you pay. I've been slaving. Turn the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Passing life for yo, yo. Living life on fast forward, but we fucking slow, mo. Yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me drunk. Car got me right, and I feel so alive. Hey, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Sei in macchina? Sei in ufficio? A casa? Al mare o in montagna? Tranquillo, non ti lasciamo solo. Non ti lasciamo solo. Infatti, se alzi il volume a palla, noi ti facciamo compagnia facendoti ascoltare un'altra scenetta dello Zoo di 105. Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quei giorni il Santissimo Padre Maronno si trovava a gestire una situazione che richiedeva tutta la sua santità. Ah, quale? Incidente. Senta, non mi faccia nominare in vano il nome di come Cristo si chiama. No, non l'ho no. vista mentre attraversava. Questo non è abbastanza? Ma come? Ma c'è, cioè, ma lei se ne vuole andare e lasciarmi qui? Ma lo vede che sto sanguinando? Oddio, non riesco a muovere la gamba. Non sento il braccio. Non ci vedo da un orecchio. Sì, dite sempre così voi pedoni distratti. Ora aspetta che sposto la tua carcassa dalla strada, ma con no. questo bastone. Ma no. Ma che fa? Ma è matto! Senti, peccatore, non vorrai che mi sporchi la mia santa tunica, Swarovski col tuo ruvido sangue. Oddio, ma ha chiamato l'ambulanza! Innanzitutto quello ferito schifoso e sporco sei tu, quindi dovresti essere tu il più interessato a farlo. E poi, prima eri al telefono, non hai chiamato soccorsi? Ma no! Come prima cosa ho chiamato la polizia! Polizia? Aia! Maronne! Aia, ma che fa? Aia! La stavo spostando, che è ancora un po' sulla strada. Lo faccio per la sua sicurezza. Sono un sant'uomo io, eh. Quello è il suo portafoglio, eh. Aspetti che lo raccolgo un attimo. Sì, grazie. Ci dovrebbero essere 320 euro. No, mi spiace, ci sono solo 30 centesimi. Devono essere anche scaduti, tra l'altro. Tenga, senta, facciamo una cosa. Le do 150 euro e ci dimentichiamo di tutto. Guardi, ho già segnalato alle autorità competenti. Anzi, dovrebbero arrivare a breve. Ti sposto dalla strada così non ti investono gli spiriti, cioè le forze dell'ordine. Ah, che bello! Ambulanza! Salve, ci ha chiamato la polizia segnalandoci un incidente. Noi eravamo nei pressi, la volante arriverà a minuti. Sa dirci cosa è successo? Sì, guardi, io stavo attraversando sulle strisce. È sotto shock, portatelo via, presto. Sta vacillando, non vede? Addirittura ha detto che ha visto la Madonna senza comprare il libro di Paolo Brosio. Ma le pare possibile? Madonna, ma allora è proprio in pieno stato confusionale. Vieno. Presto, vieno. Carichiamolo! Lei non la passerà liscia. Appena mi riprendo, contatterò il mio avvocato e la farò arrestare. Quella flebo vi serve? Ho bisogno di qualcosa per lavare il cofano. Ah, certo, padre, prenda pure. No. Guardi, le do anche questo disinfettante che smacchia benissimo. Ora via, iniziamo a soccorrere questo delinquente. Forza, lurido pastorello, vieni fuori. Grazie, padre mio. Cominciavo a sentirmi mancare l'aria nel portabagagli. E che vuoi? Sporcarmi i santi sedili? Apri quello zaino, svuotalo dalle bustine di roba bianca e mettici questa adesso. Padre mio, che cos'è? Sembra una bomba orologeria. Ma che cazzo è? Come ti permetti? Servo della crema. Questa non è una bomba orologeria, è uno dei miei santi Rolex alimentati a nitroglicerina. Benedetta! Scusate, è che quei candelotti mi sembravano i ceri santi che gettate in acqua di notte quando pescate in acque benedette. State zitto, carota, e ficcali nello zaino. Ecco fatto. Bene, adesso dammi qua e torna nel portabagaglio a dire tutte le preghierine di quei santi lì che stanno scritti sui mensili per vecchi. Aspettate, quell'uomo aveva dimenticato questo zaino. Caricatelo nell'ambulanza, mettetelo vicino a lui, e perché ho visto poco prima che ci teneva tanto. Grazie padre, lei è impagabile, davvero. Beh, se volete posso accettare anche un pagamento per i poveri, ovviamente, puttane mamma. Ma tenga, io solo 50 euro, ma lo faccio volentieri. Bravo, bravo, 50 euro, va bene. Ora andate, che tra un minuto devo pregare. La pace che sia con voi. Con mamma. No, ma non è così. Padre mio, cos'era quell'esplosione? Era l'ambulanza. No. Io li ho avvertiti che con quel motore era pericoloso, ma loro non mi hanno voluto ascoltare. E quindi ha fatto bomba! No. Abbiamo trasmesso il motore a scoppio. Ma no! State ascoltando Zoo Best, il meglio del peggio dello zoo. Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corro dalla roccia. Metaciamone ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Stasera non ti dico no. Puoi portarmi fino in Messico, ma non andiamo al mare. In qualunque posto c'è troppa gente d'agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Before you get into my life, remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this. this life can be so cruel as that. It's like a journey to nowhere, fly to the moon and back. Together we can set the world on fire, but you don't realize, girl, love is a liar. So, perché la vita va di fretta, sempre troppo da fare. E domani magari, magari questo mare non ci può notare. E l'ho pagata sulla pelle e non mi ha dato il resto. E la sera i locali, locali chiudono troppo presto, chiudono troppo presto. E adesso, in Zoo Best, ci infiliamo nelle orecchie un'altra scenetta del meglio del peggio dello Zoo di 105. Ma a proposito di gente che non fa ridere, ci colleghiamo con il... no, per dire, col minchia tutto! Bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo... a cazzo! Diamo il benvenuto al concorrente storico di questa trasmissione, il signor Giuseppe Lauria di Milazzo. Oh, salve a tutti. Buonasera, signor Giuseppe. Uh-huh. Oggi torniamo nella versione classica del nostro gioco, cioè senza il concorrente numero due. Leggiamo sul suo volto una certa felicità. Una certa felicità. Felici, perché ieri sera ho festeggiato il fatto che sono in televisione. Sì. Sono stato male, sono andato con la faccia nel water tutta la notte. Ah, la categoria da lei scelta questa sera è... Regno animale, che argomento interessante. Sappiamo tra l'altro che lei è un appassionato frequentatore di zoo. Cole? No. Di zoo safari. No. E che il suo animale preferito è niente po' di meno che la puttana. No. Pulcinella di mare. La famosa Fratercula artica. Il meccanismo lo conosce, 20 domande di difficoltà crescente. Sì, sì. Su e via verso lassù. Cagazzi! Per domanda finale, la super domanda, Via con il tempo, signor Giuseppe. Si alimentano succhiando il sangue. Ex mogli! No. La sua dimora è sottoterra. Latitante! Dalla sua bocca escono lunghi fili appiccicosi. Porno star quando ha finito la scena. Un famoso uccello ricoperto di peluria. Il mio! Un altro nome del procione. Finocchione! No. È dotato di marsupio. Terrone in vacanza! Il suo posteriore è di un intenso colore rosso. Sodomita! Si riconosce grazie alle strisce. Cocainomane! No. Una categoria di mammiferi notturni. Puttanieri! È provvisto di due pollici. Bifonzi! Crea confusione con l'inchiostro. Libero! Porta la sua casa sempre con sé. Zingaro! Pesce grosso da cui si ricava il caviale. Mafioso russo! Lo sono gli anfibi. Scarpe dei panga bestia. Dove si trova la lontra? Nell'Inghilterra. È proverbiale la sua lentezza. Impiegato del catasto. Emu e Nandu sono due? Sardi. È in grado di muovere gli occhi separatamente. Gasparri. È simile al cacatua. Merda mia. Bravissimo, signor Giuseppe. Bravo. Siamo un pasto. Che cosa ha ordinato questa settimana? Un gemello. Un gemello in che senso? Per avere... la camicia. Cosa? Per la camicia. No, proprio ho fatto... uno che le assomiglia. Esatto, sono fatto clonare il mio... Oh, Madonna. Per avere due volte me. Benissimo. Allora, signor Giuseppe, se vuole ottenere il suo gemello, deve rispondere all'ultima super domanda. È pronto? Sì, sono carico. Il suo corpo è ricoperto di aculei. Parliamo del porco... Spino! Fai il liccio comune! Ma signor Giuseppe, il porco! Spino, il porco perché Spino! Sa che mio attraverso. Zio Veneto. Ma ho capito, ma lo ripudi questo zio Veneto! È lei che me ma lei mi cade sempre lì! Me la mette in bocca! Ma no, io non le metto in bocca niente, non oserei mai, tra l'altro lei non è neanche il mio tipo! Ho capito, come faccio col gemello? Adesso niente, lo surgeli, lo iberni, lo metta nella grafite, non lo so! E non posso pagarlo, ma sicuro che non è giusto? No, è sbagliato, sono ragionevolmente certo che si tratta di un errore, signor Giuseppe! Ma provi a rileggere, magari! Il suo corpo è coperto di aculei, il porco... Spino, l'abbiamo detto adesso. Ecco, forte di me. Ho capito, signor Giuseppe. Si tranquillizzi, si calmi, respiri, perché tornerà la prossima puntata. Nel Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo a cazzo. Come direbbe Santina, buona Pasqua. Zoo Best, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105. Amici, contrariamente a quello che pensate, i ragazzi dello zoo non sono in vacanza, ma sono tutti quanti nella cantina della radio a scegliere una scenetta che possa farvi morire da ridere. Sentite qui. Ciao, io sono Peppo Pig e questo è mio fratello Giorgio. Ciao ragazzi! Questo è mio papà. Ciao. E questo è mio nonno. Bentornati bambini, finalmente di nuovo insieme. Vi chiedo scusa per la mia assenza, ma sono stato in vacanza a Cuba e mi hanno arrestato perché mi hanno beccato con una t***a e 5 grammi di rebosa. Ora sono libero e possiamo collegarci con i porcelli. Figa, papà. E adesso io come glielo dico ai tre ingrati qua che ci ha impignorato la casa? Ma no, ma no. Se tu volere potere venire a dormire in mia casa. Ma va, figa, è sugli alberi. Piuttosto, vedi di pulirti la faccia, che dopo la mia sbroffata mi sembri Michael Jackson qua. Allora tu, da rettovagliolo, eh? Vabbè, dai, pulisciti questo straccio qua, deve essere la maglietta del nonno, dai. Cosa ho fatto? Beh, dai, io andare, oggi avere tanto clienti, perché io fare promozione 3x2 a 2 euro. Che promozione sarebbe, papà? Tu pagare bocca figa, io dare bocca figa a culo. Figa. E allora mi sa che dopo venga a fare una spurgatina qua, papà. Dai, ci vediamo dopo, ciao, cita. Papà Pig, terminato il suo incontro con la zebraccia, decide di parlarle del pignoramento della casa con il resto della famiglia, con la speranza di trovare una soluzione. Paparino! Ma perché ci hai uniti tutti? Già, babbino, è successo qualcosa di grave? Ma no, prosciuttini miei. Diciamo che è una notizia non proprio bellissima, papà. Basta che ti sbrighi. Ratusolaido! Tappati il culo e mettiti una maglietta che sei pettinuto davanti alle creature qua. Scusa, è che non trovavo la maglietta. Eccola qua. Ma come mai puzza così? Cosa ci hai fatto? Cosa c'è che non va? Puzza di culo, bastardo! Dillo che ti ci sei pulito il culo! Esagerato, papà, dai! L'ho solo prestata una mia amica nigeriana per pulirsi la faccia, poverina, era tutta sbruffata, dai! Ma papino, cos'è che ci volevi dire? In pratica lo Stato ha aumentato le tasse e io non sono riuscito a pagarle e così la banca ci ha portato via la casa. No! La nostra casina, no! Adesso dove andremo a vivere, papino? Cazzo ne so, piccoli miei. È una situazione di merda, però forse io ho la soluzione. Che soluzione, nonnino? Quando ero in guerra, mi catturarono i tedeschi. Ah, e no. Quando fui liberato, l'esercito mi regalò una casa in campagna. Ma figa! Questa è una notizia grandiosa, papà. L'unica cosa che ci vorrebbe è un geometra che la renda abitabile. Ma i geometri costano tanto e io in tasca ho solo 2 euro. 2 euro? Hai detto 2 euro, eh? No! Io fare promozione 3x2 a 2 euro. Io dare bocca fino a culo. No. Ma la conosco io un geometra per la cifra, papà. No. Dici davvero, babbino? Ma certo. Dai, adesso la chiamo e la faccio venire nella casa del nonno. Dai, rattusi di merda, andiamo? La libido di papà Pig non si ferma nemmeno davanti all'imminente pignoramento della sua casa e con i 2 euro del nonno ingaggia la sua amica Troia spacciandola per un geometra. Perché? Oh, eccoci qua, questa sarà la nostra nuova casa. Che bella, nonnino! Allora, ho appena sentito la geometra e lei è già dentro che sta prendendo le misure qua. Io entro a parlare con lei e voi aspettatemi qua che dentro sarà pieno di topi, ragni, robe. Va bene, a tra poco. Cita! Dove sei, papà? Vediamo se è in questa stanza. Figa, che puzza! Deve essere quel sacco nero della spazzatura. Ma quale sacco nero di spazzatura? Essere io! Figa, scusa, papà, mi sono confuso. Vabbè, dai, tosti 2 euro. Dai, iniziamo prima che arrivino i 3 infami, dai. Tu hai detto loro che io sarei geometra? Sì. Allora, dai, io adesso farei lezioni di geometria, Tu volere vedere, cerchio? No. Ma sì, va bene, papà, dai. Ecco qua, mio buco di c***one. Figa, brava la mia geometra, Adesso volere vedere il triangolo? Sì, dai, farei vedere il triangolo. Ecco qua, mio c***one. Adesso tu volere vedere 3 rombi? Certo che voglio vederli. Ma papino! Aia. Sempre con la Ma ancora con questa storia qua? Ma questa è la geometra, papà. A proposito, se ve ne andate, che mi stava facendo vedere 3 rombi. E loro essere 3 rombi? Ma come loro? Che rombi sono? Dei rombi coglioni! Questo è Zoo Best, il meglio del peggio. Il meglio del peggio. Dello Zoo di 105. Zoo di 105. Lo Zoo di 105 qui. Pull around. time again. Questo è Zoo Best, il meglio del peggio dello Zoo di 105. Chi parla? Zoo Best. E allora che continua a telefonare? Ma va, devi al culo. Silenzio in aula! Ha ragione. Se lei parla, io come faccio a sentire la voce soave del magnifico, splendidissimo, la bellezza in persona, signori del signore Infausto! Musichetta, please, e applausi a volontà! Stoppate l'orchestra! Da quando c'è un'orchestra in tribunale? Se sei geloso. 64 elementi. C'ho un'orchestra anche per lei, per il suo ingresso. Un'orchestra di 64 elementi. La sigla. Pronti, signori, attenzione. Facciamo entrare anche il signor sacco di merda, detto cosa? Anche Erculone. Accordare il tuo carattere. Aspetta! Complimenti, signor giudice. Bellissima sigla. Fantastico. È bello vedere che comunque lei ha anche una musicalità. Il suo modo di pernacchiare. Che è successo? Giudice. Cos'è? Si è bucato il pallone? No, si è sgonfiata la bambola gonfiabile che ho sotto la scrivania. Sono un po' infastidito. È così malato di mente che si fa soffocare da una... No, pensavo di farmi una bella scopata mentre lei ci racconta le sue sante pute. Sempre meglio della droga. Dai, immaginavo. Dai, forza, andiamo avanti, dai. Partiamo. Prego, via, vai, vai. Allora, scusate. Vuole un pippotto, signor Giuseppe? No. Proprio lo inviti in bagno silenziosamente. Vabbè, comunque, ma io perché mi ostino a venire? Comunque, in poche parole, vostro onore! La settimana scorsa avevo deciso di farmi un tatuaggio sul braccio, anche se la mia età non me lo consentirebbe, però così lo ricordo, io una persona scomparsa. Mentre stavo andando al tatuatore, ho incontrato il signore Infausto. Ma perché? Ho cercato la colluttazione, ma poi mi sono tirato indietro. Che mi ha convinto, e non so come ho fatto ad accettare, a farmi tatuare dal suo cane, che diceva di essere un vero artista. Confermo, il migliore sulla piazza, e anche sull'aiuola. Ma cosa? Guarda cosa mi ha fatto, ti sembra un tatuaggio questo? Ma che bello. Bello, mamma mia, davvero un'opera d'arte. Faccio i complimenti al suo cane, signor Infausto. Grazie. Ma come gliel'ha fatto il tatuaggio il cane del signor Infausto? Con la coda! Quel coglione gli ha attaccato un ago sulla coda! Prima l'ago glielo mettevo sul pene, ma uscivano a cazzo di cane. Assolto per ora e per i prossimi 200 anni. Così funziona, dai, apriamo la bottiglia, via! Arriviamo! Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per deliberare. Linea alla pubblicità. No, basta. Sei un lebbroso opulento e nessuno vuole stare con te? No, effettivamente io. Sei pieno di pustole schifose che pure tua madre ti sputa? Non mi parla più da anni. Sei marcio da far schifo, ma vorresti tanto farti una bella vacanza? Perché no, dai. Vieni da Crosta Crociere. Crosta Crociere. E magari ti va pure di culo che affonda. Crosta Crociere. Navighiamo per lebbrosi. Finalmente la soluzione giusta. Posso portare anche il naso in una valigia. Silenzio! Non ha parlato nessuno. Sentite che fastidio. Una roba incredibile. Quella merda del signor Ercoglione. No. Scusate, volevo dire quella brutta merda del signor Ercoglione. Ma che se è corretto mi stavo offendendo. Ha osato citare per danni il bellissimo signor Infausto. Novello Brad Pitt che si era gentilmente offerto di fargli fare un bellissimo tatuaggio dal suo, oserei definire, leonardesco cane. Certo, sì. Ma quale leonardesco? Guardi che merda che mi ha fatto, ma rovinato! Accuccia, signor Ercoglione, per favore. Che sono cane. Dicevo, visti i fatti e vista soprattutto l'ora, questa corte assolve in formula piena il signor Infausto, figlio di tre puttane, e condanna il signor Ercoglione a un risarcimento di 3.000 milioni di dollari in bistecche fiorentine per il bellissimo cane dell'imputato. Non le mangerà mai. E ad 7 anni e 700 anni di servizi sociali a pulire il culo degli anziani. Così deciso, l'udienza è tolta. Cosa? Ingiustizia! L'udienza è tolta, ho detto. Andiamo, signor Infausto, che le offro un bel pippotto. Grazie, signor giudice. Ancora? Quanto tirate in sta corte? Che fa, mi risponde anche? Guardi che roba che riusciamo a fare con il signor Infausto. Pronto? Sì. Pronti, glielo passo. Stoppo! Tiro! Lo Zoo di 105 in versione best si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. Oggi sai che c'è? Mi sento come se qualcosa mancasse. Forse so cos'è. Sto meglio solo quando accendo le casse. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready. I'll be ready. I'll be ready. I'll be ready. I'll be at you when you're. che sta uscendo dalle casse del tuo stereo da barboni è Zoo Best. E questa è un'altra incredibile scenetta recuperata dai nostri archivi. Ragazzi, l'amore, manca l'amore. Noi dovremmo tutti quanti cosa? Non l'hai fatto, vero? Cosa? Non l'hai sì, sì, certo. No, non l'hai fatto. Sì, sì, certo. Cioè, certo. Quelle canzoni che stavi ascoltando. Certo, tutte le ho prese, certo. Cioè, quelle... A grande richiesta degli ascoltatori. Allora, voi sapete che noi abbiamo... Io ho condotto tanti anni fa Radio Lombardia, questo programma si chiama Il Disco Letto. Tra l'altro c'è nel film. C'è anche nel film, sì, sì, sì. E praticamente poi questo programma mi è rimasto dentro. Io leggevo le lettere d'amore degli ascoltatori, mandavo queste canzoni molto dolci. E siccome per tanti anni nello zoo abbiamo fatto Il Disco Letto, sì, ci sono talmente tante canzoni meravigliose che sono state realizzate con queste mail, ho deciso di fare il volume 3 della compilation. Che bella idea! Di tutte le canzoni del Disco Letto. Volume 3, io devo dire, è una roba di un romanticismo. Ma una sciccheria! Fiore all'occhiello. Tra l'altro, ho tralasciato alcune che erano leggermente più dirette proprio. Sì, sì, sì. Con grande rancore. Io sono convinto che Aldo Grasso farà una recensione grassa. Assolutamente, così. Non vedo l'ora. Dai, sentiamolo, vai, vai. La più richiesta. La più desiderata. La più attesa di sempre. Sì. Finalmente è uscita la Disco Letto Mail Compilation. Disco Letto Mail. La più larga del mondo. Che cosa? Disco Letto Mail Compilation. Ma col mio vibrator faccio troppo rumor. Per godermi la masturbazione. Aia. Ho bisogno di concentrazione. Non mi basta soltanto le dita. Aia. Per godere solo a metà. Preferisco una cosa che vibra, un piccolo che non funziona. Disco Letto Mail Compilation. Tra un bicchiere di cristal e un cabernet guardavi giusto una lap dance, ma poi sbavi sul sofà. Disco Letto Mail Compilation. Una f***a promessa, un po' diverso dove mettere il nostro troncone. Tutte le migliori mail musicali trasmesse dall'unico, vero, sentimentale, occhio, e per niente volgare programma radiofonico, sì, dedicato all'amore. Chissi, chissi, ma no! Ah, poi un gran bruciore, anche se boccione, lui gode più di te. Yo, Alvin Cappellon, Alvin Supercar. At Radio Bar- Disco Letto Mail questa, Compilation. Poi, eccola. Aia, no, no. Una notte di settembre mi svegliai. Aia. La sbaglia no. Sul cuscino. No, no. Occhio, occhio. Bellissimo. È quasi meglio di un budino. Che alimentazione ha quest'uomo? Equilibrato. Chissà se era roba mia. O di quel negro che? O di quel negro che no. Spiava wow. Nel cortile. Io sogno Alberto Sventura ha interpretato le migliori canzoni di sempre. Solo per voi. Quanto amore, quanto sentimento. Figa man. Yeah. Bella. Bella! Ma no! Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto alla passera No, no, anche debole, no, anche debole, no! Memole il nome mio. Mail struggenti come questa. Con tenacia e grinta supera le difficoltà. Non si abbatte ma combatte per avere una minchia. Succhi e c***i con lotti. Disco Letto Mail Compilation. Poliano che batte in tangenziale con 10.000 lire il culo ti dà. Nessuno vi può scrillettare nemmeno tu. Ma di parlare lo so. Discoretto Mail Compilation. Tu sei un genio, ti hai inventato il cazzaoke, ragazzi. Stai ascoltando lo Zoo di 105 in versione best. Shark Inside! Josie! E bello! Takagi! Getra! Di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa come, avevo solamente voglia di tirarmi su, per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù, e allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu, cercavo un mare calmo, ho trovato te. Baby girl, you're not hot tonight. I can see it in your eyes. You've been down and out for too long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, with a winner, winner. If I do, I try high, but them can't come close. I was Sean King, pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to my girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. Play good lover, so they cannot resist, no, no. Let's go. Cercavo un mare calmo, ho trovato te. Questo è Zoo Best. Il meglio del peggio dello Zoo di 105. Allora, siccome ne abbiamo preso per il culo tutti i cartoni animati, quelli più famosi, abbiamo fatto Candy Candida, abbiamo fatto Heidi, eccetera, mancava un cartone. Sì. Ve la ricordate, Magica Amy? Sì. Dai, bellissimo. Allora, Magica Amy era la versione customizzata di Creamy, invece di cantare faceva le magie. Soltanto quanto che Creamy era più figa. Quanto pianto. Esatto. Perché aveva la gonnellina plissettata, mentre Magica Amy era un po' più castigata, quindi però, non sai, si poteva fare, toccare. Fare la versione come quella originale veniva male, l'abbiamo leggermente storpiata in Tragica Amy, cioè lei tenta di ammazzarsi in ogni puntata. Ci colleghiamo con la prima tra 30 secondi. Lo strano braccialetto che indossa sempre lei è il dono di un folletto, non sono cazzi miei. Come? Ma no. C'è un teschio sul bracciale che è magico perché vuol farla suicidare, la deprime più che mai. Tragica, tragica Amy. Tragica, tragica Amy. Si pugnala, si avvelena e però non muore mai. Tragica, tragica Amy. Tragica, tragica Amy. Che tristezza, prima o poi ti ammazzerai. Abracalabria! Abracalabria! Ho detto abracalabria, cazzo! Faccio schifo! Sono un incapace, non diventerò mai una vera maga! Oddio, che tristezza! Amy, Amy, dai non piangere, lo sai che se piangi poi Gesù ti spacca la faccia. Ma come, no? Moco, tenero folletto, mio unico amico, dimmi qualcosa di bello, su, tirami sul morale. Vediamo, puzzi come i calzini di una capra che ha corso una maratona sulle ascelle di Kenshiro. Sono una merda, no. Che depressione. Moco, ma hai notato che da quando mi hai regalato questo braccialetto col teschio sono sempre più triste? Che sia colpa sua? Ma no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, assolutamente no, anzi. Mi raccomando, non toglierlo mai, Se no vi offendo. Sai cosa succede se mi offendo, vero? Gesù, mi spacca la faccia! Esatto! Ora tira delle graniate al muro che ti passa tutto! Sicuro? Sì, sì, vai, vai, vai! Ok! Aia! Aia! Aia! Aia! Dai, più forte, più forte! Aia! Aia! Non funziona! Sono sempre più triste! Oddio, Moco, amico mio fedele, consigliami tu, cosa devo fare? Semi, secondo me è venuto il momento di lanciare questa valle di lacrime. Sì. Cioè? Mi trasferisco? Emigro alle Hawaii? Ma che, se emigri alle Hawaii, Gesù ti spacca la faccia! Anche lì! Intendevo lasciare questo mondo una volta per tutte, insomma, ammazzati! Ammazzarmi? Ma non c'è speranza per tutti? Le cose potrebbero andare meglio. Ma che? Per una sfigata come te non c'è speranza. Ma fidati. Come? Ti conviene farla finita, così togli un peso a te e a tutti quelli che sono costretti a vedere ogni giorno la tua brutta faccia di cazzo. No, forse hai ragione, Moco. Grazie per il tuo affetto e la tua sincerità. Mi hai convinto. Vado a buttarmi sotto a un treno. Ma no! Ma no! Oh, brava! Ma così cosa? Ti voglio! Aspetta che prendo il cellulare e ti faccio un video. Eccoci, Moco, il momento della verità. Io, Emi, trovo il coraggio di ribellarmi all'ingiustizia dell'esistenza e togliermi volontariamente la vita. Minchia, che discorso di merda. Pure il punto di morte non vale un cazzo. Dai, sbrigati con poca batteria. Motore, azione. Ok, sono pronta. Al prossimo treno mi butto. Ciao, ciao, ciao, Emi. Che fai di bello con stazione, figa. Levati dalle palle, Junior. Mi voglio ammazzare. Sì, sì, anch'io mi ammazzo di sé. Capisco, ma è una cosa tristissima. Sento la sua una cosa fondamentale. Mi fai toccare la testa prima di buttarti. Ma no, no, no, che porco. No, levami le mani di dosso. Dai, dai, almeno una sgrillettatina. Una citofonata, no. Ding dong, ding dong. Faccio finta di essere il postino. Suono solo due volte, ding dong. Ho detto di no. Aspetta. Ho detto di... Non ce la fa. Oddio. Sembra il drogato della stazione centrale. Ti faccio Ho detto di no. Mollami, maniaco. Dai, dai, dai. Ti prego. Ti prego. Io sono anche gli affollatori precoci. Vengo su. Guarda. No, cazzo, è tutto colloso. Che schifo. Lasciami, lasciami. Dai. Dai, dai, facciamo pucci pucci. Ti prego, fammi toccare il palato. Anche una cornea, va bene. Ma porca troia, il treno è passato. Sei un figlio di puttana. Ah, sì, sì, insultami. Piccami, ah, sì, piccami, piccami. Piccami così, mi piace. Frustami, distruggimi il duodeno. Il duodeno. Stop. Uffa, Moco! Nemmeno ad ammazzarmi sono capace. Sono un vero fallimento. Ah, Emi, ti andrà meglio domani. Ora mangia. Ti ho cucinato un bel piatto di couscous scaduto. No. Ma è un chilo. È troppo per me tutto quel couscous. Ma nessun problema. Ora dico la formula magica per diminuire il couscous. E sarebbe? Acuscus, pocuscus! No. Basta almeno cicciarti una luce. Un'unghia. Tragica, tragica Emi. Tragica, tragica Emi. Si pugnala, si avvelena e però non muore mai. Tragica, tragica Emi. Tragica, tragica Emi. che tristezza, prima o poi ti ammazzerai. Però le sigle di Fabio Lisei sono veramente meravigliose, bravo. Lo bravo. Conosco, un ragazzo in gamba. Anch'io, molto e bravo. E scopa da Dio. Il tempo vola. Infatti queste due ore di Zoo Best sono passate velocissime. Ci si risente questa sera in replica o domani puntuali alle 14. Dal vostro Peito e Pippo è tutto. Welcome to the zoo.